Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Se volessero farci compagnia, ricordiamo il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, utilissimo per mandarci i trillini. Vi ricordiamo che i trillini sono soltanto uno squillo e poi riagganciate, non costano nulla, sono però una dimostrazione d'affetto, ci fanno sentire il calore umano delle persone che ascoltano. Vi possono anche però permettere di riascoltare nel quarto d'ora a nostra disposizione, dopo la sigla, le canzoni di questa trasmissione che vi sono piaciute di più. Dunque, come vi avevamo promesso la settimana scorsa, vi rileggeremo la email che ci è arrivata dalle donne afghane del Rawa. Diremo la nostra su tutta la polemica scaturita in seguito alla visione in televisione di un bacio lesbico. Daremo lettura dell'interrogazione parlamentare avanzata da Titti De Simone, di altre email, notizie e appuntamenti. Il tutto sarà accompagnato e intervallato, come sempre, da musica di donne. Quindi passo subito la parola ad Annalisa. Prego. L'11 settembre 2001 il mondo è rimasto scioccato dagli orribili attacchi terroristici negli Stati Uniti. Rawa esprime con il resto del mondo il proprio dolore e la propria condanna di questo atto barbarico di violenza e terrore. Rawa ha già ripetutamente chiesto che gli Stati Uniti non sostengano il più sanguinario, il più criminale, il più antidemocratico, democratico e misogino partito fondamentalista islamico, perché entrambi, i jihadi, l'alleanza del nord di Massoud, e i talebani hanno commesso ogni possibile sorta di orrendi crimini contro la nostra gente. Essi non proverebbero alcuna vergogna nel commettere tali crimini contro il popolo americano che essi considerano infedele. Allo scopo di guadagnare e mantenere il proprio potere, questi barbarici criminali sono pronti facilmente a qualsiasi azione delittuosa. Ma sfortunatamente noi dobbiamo dire che è stato il governo degli Stati Uniti che ha sostenuto il dittatore pakistano generale Zia-ul-Haq nel creare migliaia di scuole religiose dalle quali sono emersi i germi dei talibani. Allo stesso modo, come evidente per tutti, Osama Bin Laden è stato il pupillo della CIA, ma ciò che è più penoso è che i politici americani non hanno tratto una lezione dalle loro politiche a favore dei fondamentalisti nel nostro paese e stanno ancora continuando ad appoggiare questo o quel gruppo o leader fondamentalista. Secondo noi, ogni tipo di sostegno ai fondamentalisti talebani e jihadis è attualmente dannoso contro la democrazia, i diritti delle donne e i diritti umani. Se è provato che i presunti autori degli attacchi terroristici si trovano fuori dagli Stati Uniti, il nostro grido costante che i terroristi fondamentalisti avrebbero finito per ritorcersi contro i loro creatori è confermato, una volta di più. Il governo degli USA dovrebbe considerare le cause di fondo di questo terribile evento, che non è stato il primo e non sarà l'ultimo. Gli USA dovrebbero smettere di appoggiare i terroristi afghani e i loro sostenitori una volta per tutte. Ora che i talebani e Osama sono i primi indiziati dalle forze americane dopo gli attacchi criminali, gli USA sottoporranno l'Afghanistan a un attacco militare simile a quello del 98 e uccideranno migliaia di innocenti afghani per i crimini commessi dai talebani e da Osama? Pensano gli USA che attraverso questi attacchi, con migliaia di diseredati, poveri e innocenti afghani come vittime, saranno in grado di portare a termine la lotta contro il terrorismo? O piuttosto diffonderanno il terrorismo su più larga scala? Dal nostro punto di vista, vasti e indiscriminati attacchi militari su un paese che è sottoposto a disastri permanenti da più di due decadi non sarebbero una rivincita. Non pensiamo che una tale aggressione sarebbe l'espressione della volontà della gente americana. Il governo degli USA e il loro popolo dovrebbero sapere che c'è una grande differenza tra la gente povera e martoriata dell'Afghanistan e i terroristi criminali talebani e jihadi. Mentre noi manifestiamo ancora una volta la nostra solidarietà e il profondo cordoglio al popolo degli Stati Uniti, crediamo anche che attaccare l'Afghanistan e uccidere la sua gente più derelitta e sofferente non allevierà in alcun modo il lutto del popolo americano. Speriamo sinceramente che il popolo americano sia in grado di distinguere tra la gente dell'Afghanistan e un pugno di terroristi fondamentalisti. I nostri cuori si rivolgono alla gente degli Stati Uniti. Abbasso il terrorismo. E anche se questa mail ci è arrivata il 17 settembre, rimane sempre valida, purtroppo la guerra è cominciata, e vi segnalo il sito di Le Majas, che ospita appunto uno spazio per queste donne contro il fondamentalismo, e vi do l'indirizzo, che è www.ecn.org/reds/donne.html. E vi vorrei anche rileggere la poesia della fondatrice di Rawa, che è stata assassinata nel 1987. Sono la donna che si è svegliata, mi sono alzata e sono diventata tempesta fra le ceneri dei miei figli bruciati. I miei villaggi in rovina mi riempiono di rabbia contro il nemico. Oh compatriota, non mi guardare più debole e incapace. La mia voce si mescola con migliaia di donne in piedi per rompere tutte insieme tutte queste sofferenze e queste catene. Sono la donna che si è svegliata, ho trovato la mia strada e non tornerò mai più indietro. E adesso ascoltiamo dal CD Women's World Voices Mokira, che è una cantante dell'Uzbekistan. Sen bana Gli appuntamenti. E cominciamo subito come primo appuntamento il 29 ottobre, domenica, con Chi Capita. Parte alle ore 13.30 con un brunch, alle 15.30 con una serie di giochi, alle ore 18 ci sarà una proiezione video, il tutto presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B a Roma, e l'iniziativa è a cura del CLI, delle Beghine e con la collaborazione del Coordinamento Lesbiche Romane. Per ulteriori informazioni potete chiamare lo 06 68 64 201, e per le prenotazioni 335 5251 383, e si ricorda che l'ingresso è riservato alle donne. E da oggi è in scena al Teatro della Cometa I Monologhi della Vagina di Eve Ensler, regia di Emanuela Giordano, con Paola Cruciani, Gaia De Laurentiis, Lunetta Savino. È l'evento internazionale che indaga con grazia nell'universo femminile. Per informazioni potete chiamare allo 06 67 84 380. So close your eyes, for that's a lovely way. Sabato 27 ottobre si terrà la festa per donne organizzata dal CLIT Club presso il Disco Club Joy Hill a Cittadella in via Paggiola 7 dalle ore 23. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. A Perugia invece è in corso Schermo delle mie brame, visioni e storie di registe lesbiche. Il 21 ottobre documentari e il 19 novembre invece cortometraggi sperimentali. La giornata dedicata ad autrici italiane che saranno anche presenti alle proiezioni. I titoli sono questi: Rapido finale con passione di Luchi Massa, Ritoccandole di Annalisa De Sivo, Trilogia sempre di Annalisa De Sivo e il secondo lavoro di Cristina Boro. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. E continuiamo con gli appuntamenti. Martedì 23 ottobre, in collaborazione con il gruppo Donne Gaie del Circolo Pink di Verona, il Circolo Lesbico Drasticamente organizza un incontro con Letizia Tommasone, pastora valdese di Verona. L'incontro si svolgerà a Verona con partenza da Padova alle 20, e per informazioni potete contattare lo 049 775699. Whenever two can dream a dream together. A Napoli domenica prossima riapre la Nuit Dance e Musica Live a via Cinzia 45, fuori grotta. Per informazioni potete contattare il 328 4071 976 o il 338 12 06 666. E a partire dal 21 novembre, tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22.30, presso il circolo gay e lesbico Maurice, via Basilica 3 a Torino,

building next to a mountain. Shut it down on the edge of my head. Allora, dunque, io volevo leggervi queste poche righe che ho scritto. All'inizio di settembre, precisamente l'8 settembre, ho letto un articolo sul Messaggero dal titolo "Bacio lesbico, Bossi contro la Rai, ma in onda lo ha mandato Mediaset". Avrei voluto sinceramente parlarne subito, ma poi c'è stato l'11 settembre, poi l'inizio della guerra. Quindi abbiamo pensato che era meglio dare la priorità ad altre notizie. Ora, e non perché la guerra sia finita, anzi, ora dicevo però che ci sembrava il momento giusto per riprenderlo in mano e analizzare tutta la polemica che si è scatenata in seguito a questo evento, se non altro per inquadrare il problema all'interno di un discorso relativo alla discriminazione. Già, la discriminazione oggi sembra essere diventato improvvisamente un argomento importante, degno di nota, di rilievo. Tutti oggi parlano della discriminazione subita dalle donne afghane. Per la verità noi, insieme ad altre femministe o alle donne in nero, ne parliamo da anni della condizione delle donne nei paesi islamici. Basti pensare che noi del coordinamento lesbiche romane abbiamo denunciato i soprusi dei talibani sulle donne durante la nostra prima trasmissione qui a Radio Onda Rossa, trasmissione che risale al 1997. Ma oggi parlare delle donne afghane è trend, fa notizia, comunque mai come una notizia di prima pagina, per carità, sempre all'interno di un discorso molto più ampio. Del resto si sa, le donne sono secondarie. E chissà per quanto resterà argomento di discussione, chissà se farà la stessa fine della BSE, o dell'uranio impoverito, o delle manipolazioni genetiche, chissà. Ma torniamo all'argomento di oggi, cominciando con il raccontare i fatti. Dunque, in questa fine estate, durante le prime ore del pomeriggio, in televisione va in onda un telefilm di una serie a episodi dove le due protagoniste si scambiano un bacio. Il giorno dopo questo frammento di telefilm viene trasmesso da Blob e siccome si sa la notte porta consiglio, l'indomani mattina il ministro per le riforme istituzionali Umberto Bossi, leghista, chiede la testa del dirigente Rai Zaccaria. Questi i fatti. Cosa c'è di strano? In primo luogo c'è sicuramente la svista grossolana di Bossi che chiede le dimissioni del presidente della Rai quando il telefilm l'ha trasmesso Mediaset. E questo punto l'hanno notato in molti. Ma il problema è che si sono fermati lì. Secondo noi ce n'è un secondo, un terzo e un quarto di punto che non sono stati presi proprio in considerazione. A nostro avviso il secondo punto è legato proprio alle affermazioni del ministro, il quale da una parte confonde con una superficialità pericolosa omosessualità e pornografia e dall'altra enuncia la sua idea sulla funzione della televisione. Sentite infatti cosa ha dichiarato Bossi e cito testualmente la sua dichiarazione. È un fatto di estrema gravità imporre la pornografia ai bambini. Il canone è stato concesso alla RAI per rendere un servizio alla famiglia e agli handicappati. Ora, francamente non so più come spiegare a Bossi che l'omosessualità non è pornografia, ma alla fine una si stanca pure di parlare con gli idioti. Mi preoccupa molto di più che nessun altro o altra abbiano fatto questa precisazione di differenza sostanziale, lasciando che tutto passasse in gloria. Dall'altra parte però vorrei invece ricordarvi questo elemento fondamentale. Attenzione, se non siete sposati o sposate, e soprattutto se non siete handicappati, è perfettamente inutile che voi accendiate la televisione. Oddio, a volte anch'io dico che è inutile accendere la televisione, ma per altri motivi, quindi si prosegua. Il terzo punto invece riguarda il tenore delle risposte dei diversi interlocutori che hanno preso parte alla polemica insieme a Bossi. Il primo è Enrico Ghezzi, ideatore di Blob, poi c'è Vincenzo Vita dei DS, Giuseppe Giulietti che è il responsabile della comunicazione sempre dei DS e infine Vittorio Emiliani, consigliere RAI dell'Ulivo. Allora, cominciamo da Ghezzi, ideatore di Blob, che non so, forse come l'onorevole Bossi non ha capito ancora la differenza tra pornografia e omosessualità, in quanto afferma che, sentite bene, aperte virgolette, la scena di pornografia citata dal ministro è in realtà un bacio lesbico andato su Canale 5 e Blob lo ha trasmesso per dare conto di ciò che accade in TV. Come a dire, e io che c'entro? La mondezza la manda Mediaset e io riporto solo quello che succede. Ottimo intervento, non c'è che dire. Ma non sono da meno gli altri tre. Infatti Vincenzo Vita, esponente di S, dopo aver sottolineato come al solito la svista di Bossi, ricorda che il programma incriminato è andato in onda alle ore 15. Cielo, piena fascia protetta. Ma forse anche per lui si è trattato di pornografia? Giuseppe Giulietti invece rincara la dose augurandosi che Bossi, dopo aver chiesto le dimissioni di Zaccaria, chieda quelle di Berlusconi quale presidente e proprietario di Mediaset. Conclude invece Vittorio Emiliani che limita il suo intervento ad una sorta di sfottò al cialodurista Bossi. Insomma, il tutto si è limitato ad una facile presa in giro di Bossi, ma... se il ministro leghista non avesse confuso la RAI con Mediaset, questi illustri signori non avrebbero avuto proprio nulla da dire? E poi c'è il nostro quarto punto, che riguarda invece la redazione del Messaggero, in quanto ad una prima lettura ci era sembrato che in fondo l'autore dell'articolo e la redazione si fossero limitati, come dire, ad una mera trascrizione dei fatti, riportando via via le diverse dichiarazioni. Ad una lettura più attenta ci siamo accorti che purtroppo così non è. Al momento dell'impaginazione hanno pensato bene di affiancare a questo articolo la notizia delle nozze di un'attrice la quale tempo prima aveva dichiarato pubblicamente di vivere una storia d'amore con un'altra attrice. Ed ecco che ci salta agli occhi quindi la precisazione, badate bene, inserita fra parentesi all'interno dell'altro articolo, in base alla quale le due protagoniste del filmetto mandato da Mediaset, tutto sommato, insomma, si sono date quel bacio solo per curiosità, tanto è vero che tutte e due capiscono di preferire gli uomini. Beh, secondo noi hanno preso una posizione più che chiara rispetto alla questione. E badate bene, queste posizioni possono diventare pericolosissime. Ascoltate infatti cosa è successo, e questa volta non in un film, ma per davvero, per un bacio che due donne si sono scambiate a Bolzano. Sì, purtroppo la notizia è del 7 ottobre. Sono e, dal titolo questa mail ci è arrivata appunto in questi giorni. Aggressione razzista, pestate per un bacio, un gruppetto di ventenni le aggredite solo perché lesbiche. È successo l'altra notte nel pomeriggio dell'ex monopolio all'inizio di Via Dante. Rita e Stefania erano scese a portare il cane, come tutte le coppie si tenevano per mano, come tutte le coppie si sono scambiate qualche effusione ed un bacio. È bastato quello, però, per scatenare la reazione animalesca e razzista del branco. Prima una serie di insulti ripetibili, poi una grandinata di calci e di pugni. Una notte che non dimenticheranno mai, da incubo, da arancia meccanica. Sono le 3 di mattina della notte tra venerdì e sabato. Rita e Stefania sono una coppia, vivono insieme in centro città, in un piccolo appartamento. Sono appena rientrate da una festa. Scendono a portare giù il cane. Arrivano fino al parcheggio dell'ex monopolio. Si tengono per mano, si scambiano qualche effusione, un bacio. Da una Golf rossa e da una Fiat Uno bianca parcheggiate nel piazzale partono degli insulti in dialetto tedesco. Dentro ci sono una decina di ragazzotti, età fra i 20 e i 30, facce normali, ragazzi normali. È stato tremendo, racconta Stefania, ci insultavano pesantemente. Le due donne fanno finta di niente, ma il branco continua. Stefania è mistilingue e capisce tutto. Cercano di recuperare il cane, ma quelli continuano. Rita ad un certo punto sbotta, non ce la fa più. Si gira, è scocciata, urla di piantarla. I giovani scendono dall'auto, sono furie. Due hanno un barlume di coscienza. Si mettono di mezzo e cercano di fermare gli altri. Lasciatele stare, sono solo delle lesbiche. Errore, è proprio per quello che vogliono menarle. In otto si gettano su Stefania e Rita. Rita prende subito un pugno allo stomaco, cade per terra. Uno le salta addosso, le mette le mani intorno al collo, cerca di strozzarla. Stefania riceve una grandinata di pugni e calci su tutto il corpo. Passa un ragazzo con la fidanzata, vede tutto e chiama la polizia. L'ex monopolio non è lontano dalla questura, le pattuglie ci impiegano 2 minuti. Il branco vede i lampeggianti, sente le sirene e gli aggressori risalgono in macchina e scappano. Eravamo completamente sotto shock, continua Stefania. Non abbiamo avuto la prontezza di tirare giù i numeri di targa. Eravamo lì, per terra, pieni di lividi. Sono scoppiata a piangere. Non potevo credere di essere stata picchiata per il solo fatto di essere lesbica. E nel tardo pomeriggio, sempre del 7 ottobre, hanno deciso di presentare formale denuncia e di allegare una perizia medica. E invece qualche giorno fa ci è arrivata una nuova mail in cui, riallacciandosi proprio a questo episodio, i parlamentari Titti De Simone e Franco Grillini hanno fatto un'interpellanza parlamentare in cui raccontano l'episodio e chiedono un'inchiesta, giustamente. Bene, dopo questa drammatica notizia che ci ha letto Annalisa, mandiamo un brano di Janis Joplin dal titolo Cry Baby. Don't you know? trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man. Well, you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed. E ve la posso dire una cosa, almeno su Janis Joplin un trillino potevate pure farcelo. E adesso vi leggo un'altra mail che ci è arrivata di recente, che è un'iniziativa delle donne in nero, è al titolo «Per essere il cuore pensante della baracca». Partiamo per il Pakistan, per intrecciare i fili della tenerezza e della solidarietà che con le donne afghane. Adesso il mondo impazzito di dolore, di paura, si butta nella folle avventura della guerra, incapaci di identificare e assicurare alla giustizia i responsabili della strage di New York. Gli uomini più potenti del pianeta decidono di sparare nel mucchio, di schiacciare una parte del mondo nella speranza che, nel bagno di sangue, anche i terroristi rimangano uccisi. Ci dicono che solo la guerra potrà cancellare la violenza terrorista dalla storia, ma noi sappiamo che in ogni guerra è la povera gente a pagare il prezzo più alto e che violenza porta nuova violenza. È da molti anni che diciamo che la guerra non può essere considerato un mezzo per raggiungere un fine, perché la fine di tutti i mezzi e di tutti i fini, l'abdicazione della ragione, il crollo della civiltà. Sappiamo e diciamo che per fare la pace bisogna preparare la pace, sradicare la povertà, le ingiustizie. 2 anni fa abbiamo conosciuto le donne che in Afghanistan lavoravano per costruire una possibilità di vita migliore per donne e bambini del loro paese, schiacciato dall'oppressione integralista dei talebani. Minute nel corpo, ma tremendamente forti nella volontà. Le nostre amiche organizzano scuole clandestine in una situazione in cui si può morire lapidate per aver mostrato in pubblico un pezzetto di pelle. Noi donne in nero ci siamo fatte portavoce del loro grido di dolore. Abbiamo lavorato e lottato insieme a loro e le abbiamo invitate in Italia perché tutti sapessero cosa stava succedendo laggiù. Speravamo di poterle accompagnare nel cammino verso una vita migliore. E invece, ora, si abbatte anche su di loro la furia cieca della vendetta internazionale. A decine di migliaia, i profughi afghani si riversano nei paesi vicini e trovano le frontiere chiuse. Quando riescono a passare, vengono lasciati morire di stenti e di malattia. E di malattie, invece che di bombe. E la prima vittima della nuova guerra, come sempre, è la speranza. Noi donne in nero continuiamo testarde a tenere aperte strisce di futuro e di speranza, a costruire ponti di pace e di relazioni così come abbiamo fatto e continuiamo a fare con le donne di Palestina, Israele, Serbia, Bosnia, Kosovo e altri luoghi difficili di conflitto e di dolore. Vogliamo essere fisicamente vicine alle nostre sorelle afghane in questo momento di grande pericolo. Vogliamo condividere la paura e le sofferenze di un popolo che non ha alcuna colpa nella strage dell'11 settembre, che non occulta terroristi e non finanzia massacri, che paga il prezzo più alto per l'oppressione dei talebani. Per questo andremo in Pakistan, dal 30 ottobre al 6 novembre, con una prima delegazione di donne. Abbiamo chiesto a donne parlamentari, giornaliste e alle donne che in questi anni hanno lavorato con le donne afghane di venire con noi. Le nostre amiche ci stanno aspettando. Con noi ci saranno anche delegazioni dalla Spagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti. incontreremo uomini e donne che vivono da anni nei campi profughi, abbandonati dalla comunità internazionale. Con loro manifesteremo il nostro rifiuto alla guerra, al terrorismo, manifesteremo il nostro bisogno di libertà e di liberazione. Ancora una volta la nostra presenza nei luoghi del conflitto vuole essere un monito e una pressione sulla comunità internazionale per dire che c'è un'alternativa alla violenza e alla povertà, che bisogna cessare la guerra, la produzione delle armi, che bisogna sostenere e dare asilo a chi fugge dall'orrore e dalla violenza. Ancora una volta per dire fuori la guerra dalla storia. E questo comunicato ci è firmato dalle donne in nero e vi do i recapiti. 348-3921-465 o 06-699-50-217 e come mail lmorgantini@europarl.eu.int. E vi do anche un altro indirizzo, quello di Cristina Cattafesta, che è dei DIN di Milano e che si occuperà di alcune questioni organizzative, informazioni, visti, prenotazione viaggio, eccetera eccetera. L'email è cristina.cattafesta@telecomitalia.it. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it. Something's got a hold on me, yeah. I'm a fever. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here.